La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:34 primi, qui dagli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia e vi dice subito di che cosa parliamo in trasmissione, perché vi invito calorosamente a chiamarci l'800240024 e dirci come la pensate. Come la pensate su cosa, o meglio, su chi? Come avrete probabilmente sentito, è scomparso e morto oggi Carlo Azeglio Ciampi. Ecco, e io vi chiedo di dirci oggi, al momento della scomparsa, ma insomma il bilancio che voi avete, il giudizio che vi siete formati, il ricordo che ne serberete di quest'uomo, perché, come vedrete sui giornali domani, se non seguite i social e le agenzie, è comunque particolare quello che sta avvenendo da questa mattina. E perché è particolare? Perché questo è un paese, questo è il mio giudizio, che in questi anni crescentemente non ha più un linguaggio politico comune, valori comuni che vengono prima, no, delle spaccature politiche, delle opinioni politiche legittimamente anche molto distanti, contrapposte. Noi non lo abbiamo più, perché su molte cose di fondo, a cominciare da quelle a cui ha legato la sua vita in maniera prioritaria Carlo Azeglio Ciampi, che ci ha lasciato, e cioè l'euro e l'Europa, ecco, l'euro e l'Europa sono scelte su cui gli italiani non la pensano più come anni fa. È inutile nasconderselo. Io dico gli italiani nella loro totalità. Nei sondaggi si vede che c'è stato un cambio radicale. Eravamo storicamente il paese con la più alta percentuale nei sondaggi di Eurobarometro di fiducia e di sostegno alla scelta europea. Oggi siamo diventati un paese, a seconda di come si pongono le domande, in cui il 50% degli italiani, qualche volta anche più del 50%, dice no, non mi ci riconosco più nell'Europa, nelle sue scelte, nella sua governance e tantomeno nella moneta comune. Allora, per questo diteci come la pensate, perché sta di fatto che anche nel giorno della sua scomparsa su Ciampi le opinioni che sta dando la politica sono radicalmente opposte, cioè chi avversa oramai la scelta europea, la considera un disastro, per capirci, in due parole, un disastro, e vuole uscire dall'euro, ha dei leader politici che dicono Ciampi, sì, cordoglio, ma ha detto Salvini, per esempio, ce lo ricorderemo come un traditore, lui e chi gli ha dato una mano per fare queste scelte. Parole durissime, amarissime, però questo a me non stupisce, perché, ripeto, a me sembra un paese che ha smarrito un linguaggio e valori comuni. È spaccato, inutile far finta di non vederla questa cosa. Allora, solo due parole prima di andare ai nostri ospiti per chiedere come la pensano loro, che opinione hanno loro su Carlo Azeglio Ciampi, perché Carlo Azeglio Ciampi, a me, per quello che ho fatto nella mia prima vita, quando ero portavoce del PRI, eccetera eccetera, io ho avuto anche la fortuna di conoscerlo personalmente, di vederlo anche in circostanze fuori da quelle ufficiali, quindi io ne ho dei ricordi molto presenti a me stesso. Capitò anche una volta che mi fece paternamente, per così dire, pur essendo una persona molto fredda e misurata, non era certo come Spadolini, che si lasciava andare a delle espressioni che molti di voi, se ricordano Spadolini, si ricordano Spadolini come un uomo rotondo nella sua comunicazione pubblica. Ecco, diciamo, nel lavoro, in privato non era così. Invece Carlo Azeglio Ciampi era misurato anche in privato, e capitò che una volta mi fece una lavata di capo per una cosa che avevo scritto all'epoca sulla Voce Repubblicana, sull'IRI e le banche, e non me lo dimentico, perché è una cosa su cui io non ho cambiato idea, però ho imparato a rispettare chi la pensava come lui, un uomo di Stato. Allora, Carlo Azeglio Ciampi ha delle caratteristiche in ogni caso che lo rendono un unicum, perché un azionista da giovane, quindi cultura minoritaria di chi pensava fosse necessario ridare un'etica al paese, disconoscendone quello che nel paese era maggioritario. Non ha più avuto poi tessere di partito in tasca, vince un concorso subito dopo la guerra, entra in Banca d'Italia e ci entra con mansioni non particolarmente elevate, però dopo la terrificante crisi che la banda Andreotti Sindona riserva alla Banca d'Italia con Baffi, il grandissimo governatore Baffi, a cui viene risparmiata la galera solo per l'età, ma gli viene ritirato il passaporto, mentre in galera ci finirà il direttore generale all'epoca Sarcinelli, assume, quindi, in un contesto di grandissimo scontro politico e bancario nel nostro paese, su cui non è mai stata fatta chiarezza, o almeno chi come me ha le idee molto chiare su quale fosse la parte del bene e del giusto, quella di Baffi e Sarcinelli, e quale fosse la parte invece terrificante del male, cioè quella di Sindona e dei mafiosi che stavano con Sindona e che però avevano pieno sostegno della DC dell'epoca di Andreotti. E guida la Banca d'Italia, la guida in anni, tutti gli anni 80 fino all'inizio degli anni 90, e si trova a quel punto poi nel pezzo successivo della sua missione di servitore dello Stato come Presidente del Consiglio di un governo di transizione tecnico tra la Prima e la Seconda Repubblica e poi come Ministro dell'Economia a gestire le due scelte più pesanti dal punto di vista del tragitto che ci ha avvicinato all'euro, a gestire in maniera tumultuosa e ancora oggi molto discussa quando saltò lo SME per via della sterlina, mesi durissimi per l'Italia nel 93 con una falò di migliaia e miliardi di lire dell'epoca di riserve della Banca d'Italia. E poi dopo quello il tragitto che ci ha portato alla terza fase della realizzazione dell'unione monetaria, cioè all'euro, fino alla fissazione del cambio che molti ancora ritengono le famose 1936 lire per un euro che fosse una trattativa discrezionale, mentre invece i meccanismi erano automatici che determinavano il cambio per ogni valuta nazionale in euro, erano automatici e non discrezionali e con una trattativa politica. Molti continuano a non perdonargli di essere stato come governo tecnico l'inizio dei governi non eletti dagli italiani e ovviamente negli anni successivi, mentre si modificava l'opinione pubblica di tanti italiani sull'euro e l'Europa, molti lo associano a scelte sulle quali oggi il loro giudizio è negativo. L'uomo che ho conosciuto io aveva un'opinione altissima dell'Italia e delle istituzioni, non era uomo di partito ed era di una limpida onestà personale. Questo è quello che posso dire, ma io non mi nascondo che la spaccatura del paese non mi sorprende che porti oggi ai giudizi così duri. Allora, abbiamo chiesto opinioni diverse a due giornalisti che hanno appunto una carriera e opinioni diverse. Allora, sono i nostri ospiti Stefano Cingolani, che io ringrazio di essere con noi oggi. Stefano, ci sei? Sì, eccomi qua. Eccoci, senti? Qua, sì, ti sento benissimo. E Nicola Porro che è il vice direttore del giornale, tra poco dovrebbe iniziare a condurre per due sere alla settimana Matrix su Canale 5 e la prossima settimana, io già me lo prenoto perché parleremo con lui del suo nuovo libro che è uscito proprio adesso, Riservato alle diseguaglianze. Grazie Nicola di essere con noi per parlare di Ciampi. Grazie a te, buongiorno. Non ti sottrarre quando ti chiamo per il libro, perché è un bellissimo libro. Allora, cominciamo da questo punto della spaccatura nei giudizi. Vorrei prima da Cingolani e poi da Porro un'opinione se voi siete sorpresi e cosa pensate di opinioni così dure alla scomparsa di Ciampi. Cingolani. Ma insomma la forma è sostanza naturalmente, quindi quello che ha detto Salvini esprime effettivamente una realtà, un dato di fatto che questo cambiamento di opinione di cui tu stesso parlavi e questa spaccatura, questa frattura che c'è nel paese. Detto questo però mi pare che le posizioni di Salvini esprimano anche un astio di tipo personale che non riguardano soltanto l'euro, il fatto che Ciampi è stato l'uomo, uno dei protagonisti diciamo dell'ingresso dell'Italia nell'euro, perché Ciampi è stato anche l'uomo come Presidente della Repubblica dell'Unità d'Italia, e, diciamo, nella terza vita, diciamo, certo, così, la terza istituzione, sì. Della terza vita di Ciampi, questo è stato il punto chiave. Quindi un punto di diciamo, contestazione culturale, politica radicale della Lega secessionista di Bosch. Esattamente. Questa è stata la cifra della sua presidenza, una presidenza non interventista come quella di Scalfaro e di Napolitano. Erano gli anni della vittoria di Berlusconi e lui è stato naturalmente diciamo molto rispettoso del fatto che insomma c'era una maggioranza chiara e Berlusconi governava. Ha respinto una serie di leggi, insomma adesso questo molti se lo ricordano, insomma, quella sulla televisione, eccetera. Però insomma questa era la sua prerogativa e lui si è sempre attenuto alle sue prerogative. Ha scelto un profilo parallelo, però dirompente, importantissimo, perché erano gli anni in cui erano gli anni diciamo della Lega che voleva dividere la Lega, che interpretava lo ricordate il federalismo, adesso molti non se lo ricordano più, però insomma il federalismo della Lega era un federalismo che rischiava di spaccare il paese. Non solo, c'è un'altra cosa che va ricordata, non c'è dubbio che anche l'operazione Euro, chiamiamola così, aveva dietro di sé un rischio molto forte, un rischio di spaccare il paese in modo diverso da quello, se vogliamo, della Lega, però comunque di spaccarlo ancora di più tra nord e sud. Questo in parte è avvenuto. Per una serie di motivi, per il modo in cui è stata gestita, diciamo, l'operazione, questi anni, di partecipazione all'euro. Però ricordiamo quello che la posizione dei tedeschi, ricordiamo c'erano Schäuble, capo uno dei massimi esponenti della CDU, con i suoi documenti che insomma vedevano l'Italia, chiaramente un'Italia del nord che aveva tutti i requisiti per stare in Europa, non solo per partecipare all'euro, ma insomma per stare con i grandi dell'Europa, e un'Italia del Sud che invece precipitava tutto il paese, rischiava di far precipitare tutto il paese nel Mediterraneo, verso l'Africa e cose di questo genere. Allora, aver gestito questa operazione Euro, tenendo conto anche di questi doppi rischi, insomma, uno, chiamiamolo, della Lega nazionale, e uno sovranazionale, insomma, che è spinto da una certa linea politica e soprattutto in parte dalla linea dei tedeschi, è stato molto, molto importante. Quindi non si può accusare Ciampi di un traditore. Perché? Perché ci ha portato nell'euro, ma attenzione, non dimentichiamo che allora la maggioranza degli italiani voleva entrare nell'euro. Allora la maggioranza degli italiani sì, voleva l'euro. E a essere storicamente precisi, la Bundesbank aveva un fracco di dubbi, mentre invece fu la Confindustria tedesca, con il premier tedesco dell'epoca, a condividere la scelta di portarci dentro. Lo stesso Prodi, se ricordi, aveva dei dubbi e preferiva che noi entrassimo in una seconda fase. Sperò nella Spagna, invece la Spagna lo deluse, Prodi era diventato premier, e disse no, noi entriamo da subito. E quindi insomma è una storia complicata, però ci dice Cingolani, in realtà ecco le ragioni per cui Salvini e la Lega queste cose non se le dimenticano. Nicola Porro che dice? Ma guarda, ti dico, se tu mi chiedi commento sul commento di Salvini non saprei veramente che cosa dirti, se mi chiedi un commento su Ciampi, no, su Ciampi. Stiamo parlando di appunto, perché cioè, chi se ne frega di quello che ha detto Salvini, francamente, quello, ma non perché ce l'abbia con Salvini, no, ma perché no, parliamo no, di Ciampi, esatto. Io quello che ti dico è che domani mi dovrò sbrodolare nella mia zuppa 45 pagine per ogni giornale, porca miseria, dicendo che abbiamo perso il padre della patria, che è finita l'Italia, l'ultima grande istituzione del paese, l'uomo che non so divideva anche lui la mela in due per darla come Luigi Einaudi. Come Luigi Einaudi, però lì c'era Flaiano che ci aveva raccontata quella roba lì. Insomma, e domani ci troveremo, con tutto rispetto, i nostri colleghi che ne parleranno, basta. Perché voglio dire, è anche vero tutto quello che avete detto, il fenomeno, tutto quello che avete detto, però io mi ricordo perfettamente, e non c'ho 102 anni, mi ricordo perfettamente che quando Ciampi diceva, e lì fai molto bene tu Oscar a ricordare che quei cambi erano obbligatori il 1936.27, ma l'entrata nella SME dopo che eravamo usciti e quella banda d'oscillazione nello SME precedente che ci ha portato a quell'obbligo non era obbligatorio. Sono d'accordo. Perciò è vero quello che tu dici, perché l'origine poi sta lì, sta nello SME, sono d'accordo con te. Molti se lo dimenticano, ma lasciamo perdere, questo è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori, però ragazzi, nel 93 io me lo ricordo come ci trattavano ad Antonio Martino, io avevo 24 anni e nel mio modesto dicevamo attenzione, la moneta unica è una minchiata, questa idea di fatta da quattro burocrati europei illuminati che pensano di essere Spinelli e Adenauer forse sbagliata, questo non dividerà l'Italia, contro la maggioranza dell'Italia, questo c'aveva ragione, no, Stefano. All'epoca chi obiettava tecnicamente, io stavo in una roba che si chiama Fondazione Libera, noi giriamo l'Italia portando Fazio, Romiti, Tronchetti Provera a dire guardate che senza unificazione dei mercati e con curve di costo del lavoro sottostante non unificate, un unico tasso di interesse produce effetti asimmetrici, si veniva tacciati di eurofobi e nemici dell'interesse nazionale, questo me lo ricordo come se fosse ieri, hai perfettamente ragione. Io a questa religione che tu conosci bene, questa religione che noi abbiamo subito nel 94, domani cioè avevamo ragione nel 94, poi sono passati 20 anni e ci troviamo pure il santino di Ciampi che oggi non è più cioè, bisogna dividere, Ciampi era uno che secondo te trovavi a fare gli affari con le cooperative per portarsi l'appartamento nel centro di Roma? No. Certo, bene, no. Ma insomma io questo l'ho abbastanza un po' per una condizione. Era un uomo che è stato sempre un burocrate, un alto burocrate pubblico che ha svolto il suo mestiere pensando che lo Stato italiano dalla Resistenza in poi fosse uno Stato fico, perché vorrei ricordarti che però di una cosa, Ciampi, che sarà stato, diciamo, non come il tuo amico Spadolini rotondo, però una roba l'ha detta, e cioè l'ha detta che i Savoia non sarebbero mai dovuti rientrare in Italia, non i padri, non i figli, ma i nipoti. Li parlava perciò, l'azionista, sì. Insomma, il Ciampi azionista ce lo ricordiamo quando si oppose duramente non soltanto alle leggi di Berlusconi. Diciamo, ma non nostra... molto coerente all'idea di rivedere storicamente l'unità d'Italia come una cosa compiuta, perché quella sembrava ancora una ferita aperta, in quelle parole di Ciampi, per la pregiudizione. Accetto molto volentieri di parlare di Ciampi, però vorrei accettare anche l'idea che forse quei quattro cretini, e tra cui ci sei anche tu, Oscar, esatto, che pensavano che forse l'euro costruito in quella maniera potesse creare qualche problema contro la religione di Ciampi e dei grandi, alti burocrati italiani. Forse tutti i torti non ce l'avevano. Lo so. Allora, un minuto di strada e torniamo. La versione di Oscar. Direi che anche tra i nostri ascoltatori che ci hanno mandato sms c'è un'opinione radicalmente spaccata a metà. E io ringrazio che ci ricorda che era Theo Weigel, ma guardate che Cicolani non ha detto che era Schäuble il ministro. Sta parlando di Schäuble abbiamo parlato di Schäuble oggi, ma noi abbiamo ricordato che all'epoca le posizioni non erano diverse da quelle di Schäuble oggi. Theo Weigel, infatti, ricordate benissimo, aveva fortissimi dubbi su questo, a differenza del premier tedesco dell'epoca. Sbagliate a dire: ah, vi scoprire tutti anti-euro oggi. No, ci sono gli atti, le cose di cui ha parlato Nicola Porro e anche che riguardano me, il che significa cose diverse da dire che se usciamo l'euro da soli domani non ci esponiamo a tragedie. Però chi ha esposto i dubbi tecnici, Antonio Martino faceva parte di quella compagnia di giro che vi ricordavo, che apposta avevamo scelto tra economisti e manager che avevano storie diverse, perché Antonio Martino ha una storia diversa da Paolo Savona, eppure entrambi ammonivano su questi rischi, ma fummo tacciati di essere nemici dell'Italia. Va bene, sentiamo qualcuno di voi che ci ha chiamato per telefono. Cominciamo con Domenico da Taranto. Domenico, prego. Buonasera. Sì. Una domanda innanzitutto. Gli italiani avete detto che erano convinti entusiasti. I sondaggi dell'epoca, così dicevo. Però agli italiani fu detto che scientemente i fondatori dell'euro, tra cui Ciampi, e probabilmente dovrebbe essere accomunato per responsabilità o per meriti anche Prodi, avevano previsto l'impossibilità dell'uscita dall'euro. Quindi quale padre di famiglia, io mi chiedo, caccia in una situazione di questo genere in cui ci siamo entrati noi? No, Domenico, sono sincero, non credo proprio che al momento gli italiani avessero chiaro che nel trattato è previsto il meccanismo per uscire eventualmente dall'Unione Europea, ma non dalla moneta unica. No, credo che alla tua risposta come giornalista rispondo così. Che questo poi avesse una cosa decisiva, questo non te lo so dire, perché è difficile retrospettivamente ridirlo, ma non credo proprio che questa fosse una delle cose, perché sennò me lo ricorderei da mero giornalista vecchio. Vincenzo da Roma, come la pensa? Sì, buonasera. Io penso questo, diciamo, dovrebbe essere la stessa persona che ha sacrificato 50.000 miliardi delle nostre lire. Questa è la vicenda della riserva della Banca d'Italia quando saltò lo Smedic, che risultavo, sì, esatto, che ricordavo all'inizio. Sì. E poi che è stato un bene comunque entrare in Europa, è stato un male il cambio di conversione, ma noi con 4.000 miliardi di deficit non saremmo mai entrati in Europa, quindi hanno sacrificato a spese nostre l'entrata in Europa, perché hanno dato un valore di all'euro di 2.000 lire quando invece era 1.000 lire sarebbe stato grazie Vincenzo, però ripeto, il meccanismo finale di cambio era automatico. Un minuto a testa adesso a Stefano Cingolani e a Nicola Porro. Le pagine che escono domani, perché così sarà, secondo Cingolani e secondo Porro, cominciamo da Cingolani, serviranno a cambiare qualcosa dell'opinione degli italiani sull'euro e l'Europa oppure no? Cingolani, che dici? Secondo me no, anche perché saranno troppo retoriche. Effettivamente bisognerebbe fare una valutazione molto meno, insomma, molto meno da santino. Del resto Ciampi è stato un uomo che nelle sue tre vite, le sue tre grandi importanti funzioni, ha avuto anche molte contraddizioni, quindi questo bisogna vediamo domani chi le ricorderà. Vedremo domani chi le ricorderà. Però Stefano Cingolani ci dice no, lo ringrazio. Nicola Porro? Ma drammaticamente domani ci saranno i tantini e dall'altra parte l'eccesso, perché dare del traditore mi sembra un eccesso, non so quale dei... Beh, no, forse Santino è peggio, però l'eccesso pure diventa disgustoso perché mette male in cattiva luce invece le ragioni delle, anche della critica. Non aiuta bene a capirle, perché per superare gli errori bisogna capirli, perché se si limita invece ad assumere l'atteggiamento, sia la comunicazione dei giornali, sia quella politica, all'opinione pubblica, arriva semplicemente la demonizzazione. La demonizzazione non aiuta molto a capire. Allora, siamo sia d'accordo tutti e tre, sia Stefano Cingolani sia Nicola Porro, che ringrazio entrambi, sia Oscar Giannino, e vi do appuntamento per domani dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva con Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli, come sempre domani sarà con noi anche Roberto Perotti e tanti altri domani in diretta alle 10 alle 12. Appuntamento a domani.